E prima hai citato il mariachi, ormai è entrata nel mito abbastanza la storia con cui, cioè, perché racconta come ha trovato i soldi per finanziarlo. Puoi riassumerlo brevemente per chi non la conoscesse? Sì, lui praticamente già faceva, aveva già fatto tutta una serie di cortometraggi per il suo stesso piacere e per imparare. Lui ha detto che la sua scuola di cinema è stata la ventina di cortometraggi che ha fatto con i fratelli e le sorelle. E poi ne aveva fatti un paio negli anni dell'università che poi ha abbandonato e il grande progetto era fare un film che originariamente doveva essere per il mercato home video spagnolo e per farne poi altri due, era una trilogia di straight to video per il mercato spagnolo che gli avrebbe fruttato un po' di soldi da investire poi in quello che lui credeva sarebbe stato il primo vero film che avrebbe fatto e l'avrebbe realizzato con l'amico di sempre degli anni giovanili Carlos Gagliardo e la realizzazione è stata molto avventurosa perché lui per trovare i soldi per girarlo si è sottoposto alla sperimentazione di una medicina per il colesterolo. Praticamente è stato una ventina di giorni chiuso in un ospedale texano dove gli ha raccontato poi più volte dove gli somministravano questi farmaci, infatti ancora porta delle cicatrici all'altezza delle spalle. Perché sono i segni dei tubi che lo intubavano per fargli passare questo tipo di medicinali che erano ancora in fase di sperimentazione, e questo gli ha fruttato parte di quei 7.000 dollari con i quali poi ha realizzato il lungometraggio. E nei giorni spesi in ospedale, oltre ad aver scritto la sceneggiatura del film, avendo tutta una serie di foto e di documentazione dell'amico Carlos Gagliardo che gli diceva quali erano gli oggetti e le cose che fisicamente avevano a disposizione, cioè un wrench, un camioncino, una chitarra, un cane. Lui ha scritto la sceneggiatura basandosi su questi elementi e oltre a scrivere la sceneggiatura appunto ha conosciuto l'attore che poi sarebbe stato il cattivo del film, che era anche lui lì a sperimentare una serie di farmaci. Rodriguez è sicuramente appunto uno dei pochi, forse l'unico, che si occupa di ogni aspetto praticamente dei suoi film, li scrive, li musica, li dirige. Qual è secondo te l'aspetto di tutti i ruoli che svolge, quello che fa meglio e quello che magari invece potrebbe delegare ad altri? Non ci sarebbero, diciamo, se no non ci sono miglioramenti, non ci sarebbero peggioramenti. Ma guarda, quello che potrebbe delegare, in realtà non vorrei dire che fa tutto bene, allora non potrebbe, cioè meglio che non delega niente, però forse uno dei ruoli, diciamo, tra virgolette, minori rispetto a tutti quelli che fa lui, ovviamente minori non sono perché nessun ruolo è minore nella realizzazione di un film, potrebbe delegare qualche cosa tipo supervisore agli effetti speciali o alla scenografia, queste cose qui. Mentre invece trovo che faccia molto bene l'operatore. L'operatore alla macchina, il montatore, penso che siano le due cose che fa. Anche le musiche ultimamente ha dimostrato, insomma, di sapere fatto su, come si dice, ha fatto un'ottima colonna sonora anche per Planet Terror. E poi si appare anche lì i collaboratori, insomma, di tutto rispetto. Nel libro sottolinei come sia stato, diciamo, uno dei primi, se non il primo, a riprendere in mano la tecnologia del 3D che era andata un po' persa. Adesso che invece è di gran moda, non ci sono, mi risulta, progetti suoi su questa tecnologia. Sembrerebbe di no, lui ne aveva già fatto, aveva iniziato con un Spy Kids 3D che doveva essere un film a sé stante, autonomo dalla saga delle piccole spie, doveva essere un altro film, una specie di Tron aggiornato ai giorni nostri e fatto in tre dimensioni. Poi il successo dei primi due, una serie di pressioni da parte dei fratelli Weinstein che volevano un terzo Spy Kids, l'hanno portato a decidere di unire le due idee e fare il terzo capitolo delle spie in tre dimensioni. Dopo quello ha fatto le avventure di Sharkboy e Lavagirl, anche quello con una parte più che consistente in 3D, perché più della metà del film era in tre dimensioni. E dopo questi due, niente, è tornato ai film per famiglie con il prossimo film che uscirà, ma non Per il momento non ha annunciato altri progetti in 3D, anche se non credo che escluda di tornare a questo mezzo, insomma.